in primo piano. Infatti le aperture, le scelte sono di questi due tipi: il Corriere della Sera, immigrati, la protesta egiziana; il Giornale, uccidono i cristiani e ci danno dei razzisti. Mentre c'è invece l'altro fronte, quello della giustizia, con il decreto legge che probabilmente oggi approda al Consiglio dei Ministri e che fa litigare e discutere. Processi, 3 mesi di stop. Questo è il titolo della Stampa. Probabile un decreto bagarre al Senato. La Repubblica, un decreto blocca processi. Il Messaggero, pronto il decreto blocca processi. Allora, questi due grandi temi, iniziamo da quello che anche il nostro sondaggio, vale a dire la situazione anche diplomaticamente non facile tra Egitto e Italia, le proteste del ministro degli esteri del Cairo, del ministero che dice gli italiani razzisti. Il Corriere della Sera intervista il ministro leghista Calderoli, lo fa Goffredo Buccini. Noi difendiamo le leggi, il razzismo religioso è roba loro. Su, lo ammetta, siamo un paese razzista, ma neanche per sogno. Inizia così la chiacchierata con Calderoli, che dice: a Rosarno non c'era di mezzo neanche un egiziano, Rosarno non li riguarda, non è un caso di razzismo. E poi Calderoli dice: l'Egitto è un paese amico, evidentemente vuole coprire ciò che succede a casa sua, razzismo religioso, è tutta roba loro. Riguarda Rosarno, con chi ce l'ha Calderoli? Con certi magistrati, quelli che si aggrappano a cose che non stanno in piedi. A questi magistrati vorrei ricordare di applicare lo spirito cristiano finché l'applicazione non vanifica lo spirito stesso. E poi Calderoli respinge, insomma, le accuse, chiede Buccini: ma lei era quello che mise la maglietta famosa contro antislamica e che scatenò un putiferio in Libia? Scusi, parliamo di Egitto o di Libia? C'entrano come le mele con le pere. Questo, insomma, è il confronto italo-egiziano. Repubblica intervista da una parte Daniela Santanchè, che dice: non vanno difesi solo perché neri o musulmani, e dall'altra parte l'imam di Viale Jenner, dove c'è Viale Jenner a Milano, c'è quella che non è una moschea, ma insomma il centro religioso culturale che è adibito a moschea a Milano. Ci sono varie forme di razzismo, dice il direttore di Viale Jenner, Abdelhamid Shaari. Riguardo alla Lega, al ministro Bossi, che ha replicato: non siamo noi razzisti, sono i musulmani che fanno fuori i cristiani, dice: vorrei dire che una frase del genere si commenta da sola. In Egitto cristiani e musulmani vivono in maniera pacifica, con convivenza che esiste da secoli. Se recentemente c'è stato un momento di crisi è perché una ragazzina di 13 anni araba è stata violentata da un cristiano. La reazione sarebbe avvenuta anche se fosse stato un musulmano, però cavalcare questo episodio è sbagliato e pericoloso. E poi Shaari conferma quello che da tempo un po' si vocifera, cioè vale a dire la creazione, non dico di un partito, ma di una coalizione islamica e musulmana. Un partito degli stranieri, a dire la verità. Che obiettivi ha? Stiamo lavorando per creare una struttura delle occasioni delle comunali del 2011 a Milano. Un partito degli stranieri, un partito per difenderci, dice in qualche modo Abdelhamid Shaari. Insomma, questo è il tema. Sul Giornale, come detto, il titolo riecheggia un po' quello che è il titolo anche della Padania. D'altronde ieri Umberto Bossi ha detto, appunto, lì i cristiani li uccidono, altro che noi razzisti, li fanno fuori. Lì si riferiva all'Egitto. Infatti il titolo della Padania è: razzista chi uccide i cristiani. Il Giornale è abbastanza simile: uccidono i cristiani e ci danno dei razzisti, l'Egitto fa la morale all'Italia. C'è un commento di Paolo Granzotto in prima pagina. Scrive Granzotto: l'Egitto, che ci impartisce lezioncine di bon ton umanitario, è nella lista nera di Amnesty International per gravi violazioni dei diritti umani, respingimento alle frontiere a colpi d'arma da fuoco, torture nei locali della State Security Intelligence, dove vengono rinchiusi prima di essere rimandati al mittente rifugiati e richiedenti asilo provenienti dal Sudan e dall'Eritrea, rimpatri forzati, cioè a suon di botte scaricati dai camion in corsa. L'Egitto, che predica la tolleranza e la protezione delle minoranze, è quel posto dove la sera di Natale 8 cristiani sono stati accoppati nell'indifferenza delle cosiddette forze dell'ordine. Dunque, questo è la situazione, è quello che vi chiediamo anche nel nostro sondaggio. Che ne pensate delle accuse dell'Egitto che dice l'Italia è razzista contro gli extracomunitari, contro gli stranieri? Lasciamo questo tema che tratteremo più avanti alle 8.30 e veniamo al tema che trovate ampiamente dibattuto oggi sui giornali, vale a dire quello della giustizia. Ieri ne abbiamo parlato di giustizia e della possibilità della presentazione di un decreto legge, di cui oggi si sa qualcosa di più. Il decreto legge dovrebbe approvare oggi in Consiglio dei Ministri, in Consiglio il blocca processi, così titola Donatella Stasio, o meglio il Sole 24 Ore, nell'articolo di Donatella Stasio oggi a pagina 17. Dopo un lungo braccio di ferro col Quirinale, ecco che oggi il governo vara il decreto legge annunciato da Silvio Berlusconi al vertice di maggioranza. Il decreto legge, che prende spunto da una sentenza della Consulta del dicembre 2009, la numero 333, tutela il diritto di difesa dell'imputato in caso di nuove contestazioni del PM. Il governo propone di sospendere in questi dibattimenti appunto il processo per 45 giorni o per 60, in modo da far decidere all'imputato valutare se gli conviene chiedere il giudizio abbreviato oppure no. Cioè, nei processi dove c'è stato un cambiamento, nuove contestazioni durante il dibattimento da parte dei magistrati, l'imputato può dire: a questo punto posso avere un po' di tempo per decidere se mi conveniva il giudizio abbreviato che magari inizialmente non ho chiesto. In virtù di questo si chiede una sospensione per far decidere l'imputato di 60 giorni. Ovviamente, scrive Il Sole, una boccata d'ossigeno anche per il Premier, perché potrebbe avvalersi anche lui di questa sospensione. Il Corriere della Sera è il giornale che oggi spiega meglio, a mio modo di vedere, da dove nasce tutto questo. L'articolo a firma Dino Martirano è questo, perché, come detto, ci si riferisce a una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 333 del 14 dicembre 2009. Ebbene, la sentenza che sta per dar vita molto probabilmente a questo decreto legge, che potrebbe sospendere per 3 mesi i processi in questo caso, cioè nei casi in cui durante il dibattimento all'imputato viene fatta una nuova contestazione, dunque l'imputato può dire allora adesso forse vorrei avvalermi del rito abbreviato che magari all'inizio non ho chiesto, è una sentenza che riguarda un abuso edilizio. L'abuso di Pinerolo e gli operai imputati, così la Consulta permette lo stop. Questo è il titolo dell'articolo. Tutto nasce da un presunto abuso edilizio consumato a Pinerolo da 2 inconsapevoli operai costruttori, ai quali nell'istruttoria è stato contestato in corso d'opera anche un reato paesaggistico connesso. Bene, che cosa hanno fatto? Hanno fatto ricorso, sono arrivati fino alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, in una sentenza affidata al relatore Giuseppe Frigo, ha dato ragione ai loro avvocati, dicendo che l'articolo 517 del Codice di Procedura Penale è incostituzionale nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato relativamente al processo concernente il reato concorrente contestato in dibattimento. Come al solito, insomma, un po' di burocratese da zecca garbugli, ma la sostanza è questa, cioè è cambiato in dibattimento le accuse nei confronti di questi 2 operai e dunque loro hanno diritto a un po' di tempo per capire ora di se vogliono chiedere il giudizio abbreviato che non avevano chiesto all'inizio. E per dargli un po' di tempo bisogna sospendere temporaneamente il processo. Ecco che da 2 operai di Pinerolo da quella loro causa potrebbe nascere appunto questo decreto. Ispirandosi a questa legge, a questa sentenza della Corte Costituzionale, nasce così il decreto. Sulla Stampa c'è il fronte politico del clima che avrebbe portato Berlusconi ad accelerare per questa via, quella del decreto legge. Ugo Magri, le 23 udienze del Cavaliere. Tutto quanto sta scuotendo il palazzo, compreso il decreto blocca processi, scrive Ugo Magri, risulta inspiegabile senza un'occhiata al foglio che da giorni Berlusconi si gira e rigira tra le mani. Porta un'intestazione, udienze già fissate avanti al Tribunale di Milano nei processi cosiddetti Mills e diritti Mediaset. Sono incolonnate e suddivise per mese. Si incomincia con venerdì prossimo, Mills. Poi viene lunedì 18, diritti, quindi si salta al 25 gennaio, ancora diritti. di lì a venerdì 29 e sabato 30, MILS, fino al giorno delle elezioni regionali del 28 marzo, di qui ad allora sono ben 23 le convocazioni del Premier davanti ai giudici, 5 entro gennaio, 9 a febbraio, altrettante in marzo, prima delle elezioni. Ecco perché e come nasce il dramma politico di queste ore. Cioè, secondo Ugo Magri, ci sono anche dei virgolettati attribuiti al Premier. Fino al voto ho 23 convocazioni, è insostenibile. Un giorno è arrivato per partecipare ai processi, bisogna studiare le carte. Ho fatto portare da Ghedini ad Arcore tutti i faldoni, occupano un tavolo intero. Non dovrei fare altro nella vita per essere davvero presente in tribunale. E tra l'altro c'è anche la tentazione, secondo Ugo Magri, da parte di Berlusconi, quella di partecipare a una almeno di queste udienze per dire: spiegherei al paese come stanno le cose. Ovviamente attacca molto l'opposizione, basta vedere alcuni giornali anche di riferimento dell'opposizione, i titoli. Io mi salverò, questo è il titolo del manifesto con il volto di Silvio Berlusconi in primo piano. L'Unità invece sceglie di mettere un toro che è durante una corrida sta caricando ovviamente il drappo rosso sventolato. Il titolo è A testa bassa, bagara al Senato dopo assalto alla giustizia, insomma bagara al Senato dopo i primi sì di PDL e Lega al processo breve. E poi c'è anche il decreto, il governo vuol fermare comunque per 3 mesi i processi del Premier. Anche il Fatto mette in prima pagina impunità del Premier, ribellarsi si può. C'è anche la foto delle frasi che campeggiano nei tribunali, sfregiata, la legge non è uguale per tutti. Anche il Riformista titola così, sulle barricate. Perché? Perché c'è anche il fronte politico sulle barricate. Il titolo è dell'articolo di Alessandro De Angelis che analizza la questione politica, vale a dire su di questo tema anche del decreto si parlerà sicuramente domani. Domani? Beh, ma tra chi? Beh, domani si vedranno Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi dopo tanti momenti anche di tensione, le accuse spesso ripetute dal giornale nei confronti del Presidente della Camera. Domani alle 13.30 si vedranno Berlusconi e Fini, è anche questo il senso dell'editoriale politico del Foglio. Fini cerca un accordo con il Cavaliere, intanto tesse la tela presidenzialista. Domani alle 13.30 a Montecitorio dovrebbero vedersi appunto Fini e Berlusconi, scrive il Foglio, con il portavoce di Berlusconi Paolo Bonaiuti che dice: tra di loro non c'è una reale divisione. Staremo a vedere. Questo sul fronte politico, dunque la giustizia, soprattutto il decreto oggi in arrivo al Consiglio dei Ministri, è il tema che trovate sui giornali. Noi andiamo alle informazioni sul traffico, poi ripartiremo dal Sole 24 Ore e, come abbiamo sentito, anche dalle frasi del numero uno della Fiat, Marchionne, sul futuro di Termini Imerese. In primo piano. Allora, davanti a me il Sole 24 Ore che oggi apre sulla vicenda dei bot a livello finanziario, richiesta record di bot e i tassi vanno sotto zero, una vicenda che poi è raccontata all'interno nella prima pagina di Finanza e Mercati da Mara Monti. Vale a dire, la domanda record dei bot a 3 mesi ha fatto scendere all'asta di ieri i rendimenti lordi al minimo storico dello 0,37%, che al netto poi di ritenute e commissioni bancarie ha portato il tasso netto in negativo, cioè a meno 0,08%. Per evitare ovviamente questa discesa sotto zero è scattata una misura di salvaguardia messa a punto dal Tesoro dopo una analoga situazione che peraltro si era già verificata anche a settembre. Le commissioni bancarie dunque sono state ridotte per ottenere almeno un rendimento netto dei titoli, almeno alla pari, giusto per non andare sotto zero. Ma questo è spiegato appunto all'interno di Finanza e Mercati. Un altro tema che trovate a pagina 3 è sicuramente tema economico, le parole di Marchionne. Fiat chiuderà Termini, aperture su Pomigliano. Questo è il titolo di prima pagina. Marchionne, come abbiamo sentito a Detroit, al salone dell'auto a Detroit, folle riabilitare Termini. Sergio Marchionne lo ribadisce nell'articolo di Andrea Malan: sulla chiusura di Termini Imerese non si torna indietro, l'ho detto il 18 giugno, l'ho ripetuto a Palazzo Chigi, l'ho ripetuto ieri, nel messaggio non è cambiato niente. E poi, insomma, dice Marchionne: mi hanno accusato di aver fatto una battuta crudele sul fatto di dover spostare la Sicilia vicino alla Lombardia, ma da un punto logistico non posso fare assolutamente niente. Attualmente noi spediamo dei pezzi in Sicilia, li montiamo e poi li ricacciamo fuori. L'unico a guadagnarci è il sistema di logistica attorno allo stabilimento. Badate, ciò non ha niente a che fare con la qualità dei lavoratori, la fabbrica è nel posto sbagliato. Così dice Marchionne, è da pazzi non rendersi conto di questa situazione. E ovviamente, che cosa succede? Già ieri ci sono stati degli scioperi spontanei, iniziati ieri mattina, oggi lo sciopero unitario contro la chiusura, scrive Giorgio Pogliotti nell'articolo, insomma, di appoggio. Ieri appunto erano blackout spontanei, mentre ora ci si organizza per uno sciopero un po' più strutturale. Tra l'altro, a corollare ancora di questo tema molto interessante, c'è anche un articolo di Carmine Fotina sugli incentivi. Per gli incentivi spunta la soluzione mille proroghe. A cosa sta pensando il Ministero dello Sviluppo e dell'Economia? Beh, stanno pensando a dare incentivi all'auto subito nel decreto mille proroghe e invece gli aiuti agli altri settori nella fase 2 con un nuovo decreto, cioè svincolare, separare i settori, affrontare subito quello del settore dell'auto, separando dunque il destino dell'auto da quello degli altri settori, in modo che per, insomma, dare, vista l'esiguità delle risorse in campo, subito delle risorse a questo settore, e dunque farlo nel decreto mille proroghe, il cui relatore Lucio Malan dice: beh, se sono una sorta di riedizione di quelli che c'erano con poche modifiche o addirittura se sono identici, ci possono stare. Dunque si starebbe pensando a incentivi all'auto subito. Voglio tornare sul Corriere della Sera, ma in realtà lo trovate sulla Stampa, lo trovate su Repubblica, lo trovate un po' ovunque. È l'apertura addirittura del Fatto Quotidiano, che titola così: io, dell'Utri e Cosa Nostra, questa in prima pagina. Di cosa stiamo parlando? Sono le rivelazioni, i verbali di Ciancimino, il Massimo Ciancimino, il figlio di Vito Ciancimino, l'ex sindaco di Palermo condannato per mafia, che nel in un procedimento, insomma, sostanzialmente ha fatto delle accuse molto molto pesanti al senatore Dell'Utri, dicendo sostanzialmente che si incontrava, comunque aveva rapporti stretti con Bernardo Provenzano. Scrive Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera: sicuramente il Dell'Utri ha gestito soldi che appartenevano sia a Stefano Bontate che a persone a loro legate. Questo lo dice Massimo Ciancimino. Poi dice ancora di che tipo di rapporti erano quelli tra Dell'Utri e Bernardo Provenzano. Molto stretti, molto stretti. C'era rapporto diretto, tant'è che mio padre, quando aveva bisogno di avere favori da quel partito che poi era nato, cioè Forza Italia, come bozze di legge, eccetera, il punto di riferimento era sempre il Loverde. Loverde è il nome con cui Massimo Ciancimino conosceva Bernardo Provenzano. Si faceva chiamare così dal padre, Loverde. Insomma, dichiarazioni fluviali, deposizioni fluviali, le definisce Giovanni Bianconi, ma certo esplosive se poi confermate. C'è tra l'altro un'intervista allo stesso Dell'Utri, fatta da Felice Cavallaro, che dice: è un mitomane, è un cretino, un pazzo, potrei usare qualsiasi aggettivo contro chi pompa queste sonore, immense minchiate. Ormai sono esausto, non vorrei incazzarmi, ma ci sarebbe da prendere un badile e rovesciarlo addosso a questo cretino. Si riferisce ovviamente a Massimo Ciancimino. Sono solo stufo, non ne posso più di queste calunnie artatamente costruite e amplificate da chi cerca di infangare gli altri per salvare la ghirba, come dicono a Milano, cioè per salvare la pelle e il denaro. Poi dice: non ho mai visto Bontate, ma chi ha visto Bontate? Il mio incontro con Vittorio Mangano, il famoso stagliere ad Arcore, lo conoscevo non perché fosse mafioso, come sarebbe divenuto in seguito, molto tempo dopo aver lasciato la residenza di Arcore. E poi ancora Dell'Utri che dice, accusa molto il pubblico ministero Ingroia, attualmente a Palermo, e dice, e anche il presidente Leonardo Guarnotta sono in combutta e sono sodali, dice. Beh, addirittura sodale è una parola pesante. Erano nello stesso ufficio d'accusa. Guarnotta veniva dal vecchio ufficio istruzione. Ma Felicio Cavallaro, il giornalista, gli chiede: Guarnotta in quell'ufficio lavorava con Falcone? E Dell'Utri: guardi, Falcone era un'altra cosa. Se ci fosse stato il mio processo non sarebbe mai cominciato. Sa cosa mi avrebbe detto Falcone? Vada a lavorare, signor Dell'Utri. Insomma, dichiarazioni esplosive sicuramente quelle di Massimo Ciancimino, che vedremo insomma se avranno qualche seguito. Voglio andare alle segnalazioni conclusive. Sempre sul Corriere della Sera c'è un articolo bello di Aldo Cazzullo che racconta che cosa? Beh, ieri sono iniziate le riprese di un film che sta già facendo discutere, no? Sono le prime riprese, è di Michele Placido, un film dedicato a Vallanzasca, Renato Vallanzasca, il bel René, ma anche colui che ha ucciso diverse persone, un film che già sta facendo discutere, immagini ovviamente le riprese a Milano, dove Vallanzasca molto si muoveva dal punto di vista criminale. Mi guardo bene dal renderlo un Robin Hood romantico, dice Michele Placido, ha ucciso anche dei poliziotti, io sono stato poliziotti, figuriamoci se non sarò rispettoso delle vittime. Chi interpreta Vallanzasca è Kim Rossi Stewart. L'ultima segnalazione, forse ve la ricorderete, forse no, Susanna Torretta. Vi dice qualcosa questo nome e cognome? Susanna Torretta. L'ex dama di compagnia della contessa Vacca Augusta, precipitata nel 2001 misteriosamente da Villa Altachiara, l'ex bomba sexy duplicata su migliaia di calendari osè, l'ex protagonista dell'Isola dei Famosi, che tutti forse avevano detto finirà al dimenticatoio, che ha fatto è diventata di recente una campionessa di bodybuilding, diventando addirittura campionessa italiana. Ora però, e c'è sul secolo XIX la sua storia, la Torretta abbattuta dal doping. È stata trovata positiva ad amiloride, clenbuterolo, furosemide, idroclorotiazide, clorotiazide, e mi perdonino quelli che si intendono di questi termini, insomma, doping. La Torretta abbattuta dal doping è una storia che porta alla ribalta, insomma, questa bellissima donna che per altri motivi nel passato era andata finita sui giornali.